Un abuso al giorno toglie il codice d'intorno. Di Roberto Galullo. Buongiorno e benvenuti ad una nuova puntata di Un abuso al giorno. Come sempre, la mail alla quale scrivere un abuso al giorno @radio24.it. Vi ricordo anche il mio blog Guardie o Ladri, come la trasmissione che conduco il sabato su Radio 24 alle 19:30. Lo trovate sull'home page del Sole 24 Ore, oppure digitate su Google robertogalullo.blog.ilsole24ore.com e arrivate al mio blog, in cui tratto di temi di legalità e criminalità organizzata. Allora, come sapete, nelle mie trasmissioni, tanto Un abuso al giorno quanto Guardie o Ladri, spesso ho affrontato i temi relativi all'abusivismo. Abusivismo edilizio che al sud fanno chiaramente rima con mafia, sia essa Cosa Nostra, sia essa 'ndrangheta o camorra, ma purtroppo il tema dell'abusivismo edilizio in realtà interessa tutto il paese. Seguiteci nei prossimi giorni, perché oltre a quello che vi presento ora e di cui Radio 24 ha già trattato in un GR negli scorsi giorni, tratteremo anche di altri casi molto interessanti. Oggi però parliamo di Riano, un paese, un piccolo comune alle porte di Roma, dove il Corpo Forestale dello Stato ha individuato un piccolo borgo abusivo. Magari sarà stato anche enfatizzato dai giornali, probabilmente sì, probabilmente no. In ogni caso, 16 lottizzazioni non autorizzate su una superficie di oltre 130 ettari, che comunque un francobollo propriamente non è. E per parlare di questo caso noi abbiamo il piacere di avere con noi ospite il vicequestore aggiunto del Corpo Forestale dello Stato, Matilde Modena, alla quale do il benvenuto. Buongiorno. E il sindaco di Riano, Nicola Regano, al quale do ugualmente il benvenuto. Buongiorno sindaco. Buongiorno, buongiorno. Allora, io la prima domanda che vorrei fare è rivolta al vicequestore Matilde Modena. Le chiedo: come vi siete accorti di questo insediamento abusivo? Segnalazione, la pattugliamento e quindi una normale operazione che stavate facendo? Come siete arrivati a sequestrare questo piccolo borgo abusivo? Le indagini sono state svolte per un comando stazione del Corpo Forestale di Castelnuovo di Porto. E ci sono stati diversi anni, le cose sono state accertate nel corso di anni, e credo che la cosa sia partita da un esposto che poi è arrivato in procura, e la procura ha subito fatto una prima delega per così verificare queste, che cosa è, diciamo, la veridicità di questo esposto. Certo. Le cose sono partite così, e poi mano a mano, sempre su disposizione della procura di Tivoli, il personale del Corpo Forestale ha eseguito tutti gli accertamenti che la procura richiedeva. Ecco, una curiosità, dottoressa Modena, visto che parliamo, comunque abbiamo visto anche le foto sui giornali addirittura di ville sequestrate, comunque di interi edifici, parliamo di 117 edifici a destinazione residenziale, quindi propriamente non un gioco, ma chi ci abita dentro adesso, cioè chi ci abitava continua ad abitarci, oppure se ne dovrà andare? No, beh, da lì se ne dovranno andare. Ecco, quindi adesso sono state, ieri c'è stata l'operazione, quindi si è fatto, si è preso contatto con gli abitanti, e ovviamente 117 famiglie possono essere in situazioni molto differenti, può essere una seconda casa, può essere la casa, certo, del sabato e della domenica, può essere la casa, una casa, averne altre, quindi a seconda delle situazioni che c'erano, ovviamente situazioni in cui c'erano bambini, anziani, malati, eccetera, quindi tutte. Ecco, se ne dovranno andare, perché poi a suo giudizio, quindi poi a seconda delle situazioni, è stato anche ovviamente sempre su, sentendo la procura, sono state concessi dei giorni per lasciare, cioè non è che si è messa la gente in mezzo alla strada. Ecco, però dottoressa Modena, le chiedo, almeno secondo il suo giudizio, poi ora subito sentiremo il sindaco, il destino di queste case abusive qual è? La demolizione? Beh, quello poi dipende da come vanno avanti, insomma, gli atti, le fasi del procedimento. Adesso lei calcoli che sia ancora nelle indagini preliminari, perché il sequestro che è stato fatto sulla base di un decreto a firma del GIP, quindi del giudice per le indagini preliminari. Certo, siamo allora ancora nella fase delle indagini preliminari. Benissimo, io la fermo un secondo, perché a questo punto è doveroso passare la parola al sindaco Regano. Quello che mi chiedo e che le chiedo, sindaco, è come sia possibile che possa sorgere un borgo abusivo senza che gli amministratori si accorgano di questo. Il problema è proprio l'errore iniziale, cioè non sono borghi abusivi, cioè queste case che sono lì già da alcuni anni e ci abita della gente dentro ed è una prima casa per la maggior parte, perché sono quasi tutti residenti, hanno costruito con delle licenze, regolari licenze, hanno pagato regolari oneri di concessione in base al piano regolatore approvato dalla Regione nel 99, quindi prima del 2003, quando poi è cambiata la legge sull'agricolo, era previsto l'edificazione di borghi agricoli concentrando l'edificazione e vincolando i terreni restanti. Ecco, costruzione di borghi agricoli che cosa vuol dire? Vuol dire che uno deve rispettare l'ambiente e quindi deve cercare di costruire in modo tale da rimanere in armonia con l'ambiente circostante? Vuol dire prima del 2003 si poteva costruire in agricolo avendo un ettaro o due ettari, poi è cambiata la legge, quindi l'inchiesta è partita quando le costruzioni erano già quasi tutte fatte, perché avevano regolare licenza, qui non c'è un abuso edilizio. Il giudice sta facendo un'indagine e presume che ci sia una lottizzazione abusiva, ma di fatto queste persone che ci abitano e che per loro rappresentano una prima casa, hanno fatto dei mutui perché hanno scelto di vivere in campagna, non hanno fatto nessun abuso, nel senso che hanno... Ecco, quindi diciamo così che ci sono due teorie nettamente distinte. L'una, quella della procura di Tivoli e quindi del GIP che sta conducendo le indagini preliminari, e quella invece vostra come amministratore che dite attenzione, qui di abuso non si tratta. Mi tolga una curiosità, sindaco, ma lei in qualche modo è stato coinvolto, nel senso era in giunta a casa lì, oppure io abito qui, faccio il mio lavoro qui, abito da sempre qui, quindi... No, dico, ma abita in quel borgo per caso? No, assolutamente ecco. Quindi lei difende, suppongo, scelte fatte quando lei non era sindaco, o era già sindaco? No, io ero amministratore, non ero sindaco, però il piano regolatore è stato approvato nel 99, la Regione Lazio l'ha valutato ed approvato, entro il 2003 sono state rilasciate queste licenze e poi è cambiata la legge, quindi quello che si chiama abuso, che non è un abuso, non è stato fatto negli ultimi tempi. Certo, beh, indubbiamente parliamo di edifici già costruiti. Mi tolga una curiosità, lei che delega aveva quando era amministratore? Urbanistica. Ah, ecco, quindi diciamo così che lei è super coinvolto in questa vicenda, no? Coinvolto, sì, abbiamo coinvolto, però voglio dire, il giudice per ora non ha emesso nessun provvedimento nei confronti dell'amministrazione, tranne che per il tecnico che purtroppo firma le autorizzazioni, ma sono tutte, cioè ogni casa ha una regolare licenza. Ecco, quindi diciamo così che come potranno notare i nostri radioascoltatori e come sanno che è mio uso e costume, certamente noi conosciamo benissimo i casi che affrontiamo, ma poi le domande vengono in corso di puntata e quindi abbiamo scoperto che comunque il sindaco, insomma, è responsabile di quello che è accaduto e ce lo conferma, giusto? Però lei dice è tutto regolare. Responsabile perché io c'ero, non responsabile. Beh, non è anche stato perché era assessore all'urbanistica, non era. Non ho commesso nessun abuso. Ecco, no, ma infatti io riporto la sua posizione. Chiedo al vicequestore Modena: vi trovate spesso in condizioni per le quali appunto il crinale giuridico tra il lecito e l'illecito, il legale o l'illegale, l'abuso o il non abuso è così sottile? Quindi voi dovete eseguire, ovviamente dovete fare il vostro lavoro, quindi se vi dicono di sequestrare, sequestrate. E invece poi in realtà gli amministratori si comportano, come dire, anche loro dal loro punto di vista, dicono noi abbiamo le carte in regola. Ecco, Modena, accade spesso oppure no? Allora le spiego, cioè in genere si intende per abuso edilizio un edificio, cioè, per il quale mancano i presupposti autorizzativi. Certo. Cioè la classica casa abusiva si intende quella in cui costruita in riva al mare, insomma. No, qualcuno una palafitta, una casa e non aveva il permesso, esatto, di costruire, quella è la classica casa abusiva. Qui però invece tantissimo e sempre di più si trovano delle costruzioni che possono essere singole costruzioni o anche delle lottizzazioni che hanno un permesso di costruire, però andando a vedere, diciamo, le norme d'attuazione del piano regolatore o le norme, i vincoli paesaggistici eccetera, quei permessi di costruire non potevano essere rilasciati in quelle circostanze o con certe caratteristiche o in certe posizioni eccetera, certo, eccetera. Le carte stanno a posto, cioè il permesso, certo, di costruire c'è. Certo, così come ci ha raccontato il sindaco appunto di Riano. Noi continueremo a seguire questa vicenda e anche altre, come vi ho anticipato in premessa di puntata. Io ringrazio il sindaco di Riano Nicola Regano e il vicequestore del Corpo Forestale dello Stato Matilde Modena per i loro interventi. Grazie a Pietro Lacorte, in regia e in studio a Laura Fagina. Roberto Galullo vi dà appuntamento a domani per una nuova puntata di Un Abuso al Giorno.